Aveva la schiena irrequieta e la nuca di porcellana. Aveva i capelli castani e ribelli e una lingua affilata e allegra con la quale vagliava vita, morte e miracoli di chiunque le capitasse sotto tiro. Alla gente piaceva parlare con lei perché la sua voce pareva di fuoco e i suoi occhi sapevano tradurre in parole i gesti più insignificanti e le storie meno ovvie. Non che inventasse malignità sul prossimo o conoscesse più nei dettagli un pettegolezzo, più che altro sapeva scoprire il punto debole di ogni intrigo, l'esatta dimenticanza di Dio che coronava la bruttezza di qualcuno, la lieve imprecisione verbale che rendeva sgradevole un'anima candida. La zia Charo amava stare al mondo, osservarlo con i suoi occhi inclementi, arrotarlo con la sua voce frettolosa. Non perdeva il suo tempo. Mentre parlava, cuciva i vestiti dei figli, ricamava iniziali sui fazzoletti del marito, faceva gilet per chi avesse freddo d'inverno, giocava a pallamuro con sua sorella, cuoceva la più squisita torta di grano turco, impastava le frittelle sulle proprie ginocchia e aiutava i figli a fare i compiti che non capivano. Mai si sarebbe vergognata della sua passione per le parole, se non fosse che un pomeriggio di giugno accettò di partecipare a degli esercizi spirituali in cui la predica cadde sul comandamento non dire falsa testimonianza. Per un po' il padre parlò dei falsi testimoni celebri, ma vedendo che così non faceva presa sul suo sonnolento uditorio, passò a demonizzare la piccola serie di peccati veniali che si commettono parlando del prossimo e che, sommati, diventano giganteschi peccati mortali. La zia Charo uscì dalla chiesa con un rimorso che le attanagliava la bocca dello stomaco. Si era forse caricata di peccati immortali a furia di sparlare del naso di una signora e dei piedi di un'altra, della giacca di un signore e della gobba di un altro, del denaro di un arricchito e degli occhi inquieti di una donna sposata. Era possibile che il suo cuore fosse imputridito dai peccati per la sua conoscenza di tutto quel che accadeva tra le sottane e i pantaloni della città, di tutte le idiozie che impedivano la felicità altrui e di tanta felicità altrui che non era altro che idiozia? Il terrore si faceva strada dentro di lei. Prima di tornare a casa, passò a confessarsi dal parroco spagnolo arrivato da poco, un uomo piccolo e mite che girava per la parrocchia di San Javier in cerca di fedeli che gli accordassero la propria fiducia. A Puebla la gente può arrivare ad amare più intensamente che altrove, ma ci vuole del tempo. Non ci si fida del primo sconosciuto come se lo si conoscesse da una vita intera. Tuttavia, in questo la zia non era come i suoi concittadini. Fu una delle prime clienti del prete spagnolo. Il vecchio curato che le aveva dato la prima comunione era morto, lasciandola senza nessuno cui confidare i suoi pensieri più segreti, quelli che lei e la sua coscienza distillavano in privato, quelli che avevano a che fare con i suoi piccoli smarrimenti, con i dubbi delle sue privatissime sottane, con i ribollimenti del suo corpo e i cristalli oscuri del suo cuore. Ave Maria Purissima, disse il parroco spagnolo nella sua lingua secca, più simile a quella di un cantante gitano che a quella di un prete educato a Madrid. Concepita senza peccato, rispose la zia sorridendo nell'oscurità del confessionale, come sempre quando faceva tale affermazione. Sta ridendo, indovinò lo spagnolo come se fosse uno stregone. No, padre, disse la zia Charo, temendo i fulmini dell'Inquisizione. Io sì, replicò l'ometto, e lei può farlo con il mio permesso. Non conosco un saluto più ridicolo, ma mi dica, come sta? Che cosa le succede oggi, così tardi? Mi domando, padre, disse la zia Charo, se è peccato parlare degli altri. Sa. Raccontare quello che succede, sapere quello che provano, non essere d'accordo con quello che dicono, notare che lo strabico è strabico e la zoppa è zoppa, che il tale è spettinato e l'altra parla solo dei milioni del marito, sapere come il marito si è fatto i milioni e con chi se li spende. È peccato, padre? Chiese la zia. No, figlia mia, rispose il parroco spagnolo, questa è ansia di vita. Che cosa ha da fare qui la gente? Lavorare e pregare? Avanza molto tempo. Vedere non è peccato e commentare neppure. Vai in pace, dormi tranquilla. Grazie, padre, disse la zia Charo e corse a raccontar tutto a sua sorella. Ormai libera dal peccato, seguitò ad assaporarsi il romanzo che la città le regalava. Aveva la testa piena dell'andirivieni del prossimo ed era una sicura garanzia di divertimento. Per questo la invitavano a tutte le vendite di beneficenza e se la disputavano in più di 10 per averla al proprio tavolo il giorno in cui si giocava a canasta. Gli altri la invitavano a casa propria, andavano a farle visita. Non deludeva mai, mai si ebbe primizia che non uscisse dalla sua bocca. Così trascorreva la vita fino a una certa sera al Bazar di Guadalupe. La zia Charo aveva passato il pomeriggio lottando con le perline di una cintura e, non avendo novità da raccontare, stava a sentire. Charo, tu conosci il padre spagnolo della chiesa di San Javier? Le domandò una signora mentre finiva all'orlo di un tovagliolo. Perché? Rispose la zia Charo, abituata a non sbilanciarsi troppo facilmente. Perché dicono che non sia un prete, ma un repubblicano bugiardo arrivato con i rifugiati accolti da Cardenas, che non avendo trovato lavoro come poeta, si è inventato di essere un prete, racconta che i suoi documenti sono andati bruciati con la chiesa del suo villaggio all'arrivo dei comunisti. Com'è cattiva certa gente, disse la zia Charo e con tutta l'autorità del suo prestigio aggiunse: il padre spagnolo è un uomo devoto, gran cattolico, incapace di mentire. Io ho visto la lettera con cui il Vaticano l'ha inviato al parroco di San Javier. Se poi, quando è arrivato, il povero vecchietto stava per morire, non è colpa sua, non ha avuto il tempo di presentarlo. Ma che l'abbiano mandato è cosa certa. Non avrei certo scelto come mio confessore un commediante. E il tuo confessore? Chiese una voce dal coro delle curiose. Ho questo privilegio, ribatté la zia Charo e tornò al fiore di perline che stava ricamando, considerando ormai l'esaurito argomento. La mattina seguente entrò nel confessionale del padre spagnolo. Padre, ho mentito, disse la zia. Bugie gravi? Domandò il padre. Bugie necessarie, rispose la zia. Necessarie per il bene di chi? Domandò ancora il padre. Di una reputazione, padre, disse la zia. La persona che ha aiutato è innocente. Non lo so, padre, confessò la zia. Il merito è doppio allora, disse lo spagnolo. Che Dio ti conservi lucidità e bontà d'animo. Vai in pace. Grazie, padre, disse la zia. Grazie a te, le rispose lo strano sacerdote, facendola tremare. Non era bella la zia Cristina Martinez, ma aveva qualcosa nelle gambe magre, nella voce precipitosa, che la rendeva interessante. Disgraziatamente gli uomini di Puebla non andavano in cerca di donne interessanti da sposare e la zia Cristina compì 20 anni senza che nessuno le avesse mai proposto neppure un fidanzamento di buon livello. Quando compì i 21, le sue quattro sorelle si erano ormai sposate, bene o male, ed era umiliante per lei passare la giornata a ricamare paramenti sacri. Tra non molti i suoi nipoti avrebbero cominciato a chiamarla zitella e lei non era sicura di poter reggere il colpo. Fu dopo quel compleanno, terminato con le lacrime di sua madre al momento di spegnere le candeline sulla torta, che apparve all'orizzonte il signor Arqueros. Una mattina Cristina tornò dal centro, dove era andata a comprare dei bottoni di madreperla e un metro di pizzo, raccontando di avere conosciuto uno spagnolo distinto nella gioielleria La Princesa. I brillanti in vetrina l'avevano spinta a entrare per chiedere quanto costasse un anello di fidanzamento, il sogno della sua vita. Il prezzo le sembrò onesto e si rammaricò di non essere un uomo per poterlo comprare all'istante e mettersene un giorno al dito. Loro possono avere l'anello prima della fidanzata, possono addirittura scegliersi una fidanzata che faccia pendant con l'anello. Noi invece dobbiamo soltanto aspettare. Ci sono quelle che aspettano tutta la vita e quelle che si rassegnano per sempre a un anello che le disgusta. Non credi? Chiese sua madre durante il pranzo. Non ti mettere contro gli uomini, Cristina, disse sua madre, che avrà cura di te quando io morirò. Io, mamma, non ti preoccupare, sarò io ad avere cura di me. Nel pomeriggio, un incaricato della gioielleria si presentò a casa con l'anello che la zia Cristina si era provata, allungando la mano davanti a sé per guardarlo da tutti i lati, mentre diceva un mucchio di cose simili a quelle che aveva ripetuto a sua madre in sala da pranzo. C'era anche una busta sigillata indirizzata a Cristina. entrambe le cose, e mandava il signor Arché Rossa con la sua devozione, i suoi ossequi e il dispiacere di non averle potuto consegnare personalmente, ma la sua nave salpava da Veracruz il giorno seguente e lui avrebbe dovuto viaggiare parte di quel giorno e tutta la notte per arrivare in tempo. Il messaggio era una proposta di matrimonio. Le sue idee sulla vita, sugli uomini e sulle donne, la sua voce deliziosa e la scioltezza con cui cammina mi hanno affascinato. Non tornerò in Messico per diversi anni, ma le propongo di raggiungermi in Spagna. Presto, il mio caro amico Emilio Suarez si presenterà ai suoi genitori. Ripongo in lui la mia fiducia e in lei le mie speranze. Emilio Suarez era l'uomo dei sogni adolescenti di Cristina. Aveva 12 anni più di lei ed era ancora scapolo quando lei ne aveva 21. Era ricco come il bosco sotto la pioggia e selvatico come le montagne in gennaio. Le avevano dato la caccia a tutte le donne della città e alle più fortunate avevano ottenuto il semplice trofeo di un sorbetto sotto i portici. Ogni buon conto si presentò a casa di Cristina per proporre a nome del suo amico un matrimonio per procura, nel quale con grande piacere lo avrebbe rappresentato lui. La mamma della zia Cristina si rifiutava di credere che sua figlia avesse visto lo spagnolo una volta sola e non appena Suarez sparì con la risposta che ci avrebbero pensato, l'accusò di mille misfatti. Ma sua figlia sembrava tanto sorpresa che alla fine si scusò con lei e rivolgendosi al cielo dove era suo marito, chiese il permesso di commettere lo sproposito di sposarla a un estraneo. Quando si uscì dalle strettoie della sorpresa, la zia Cristina guardò il suo anello e cominciò a piangere per le sue sorelle, per sua madre, per le sue amiche, per il suo quartiere, per la cattedrale, per la piazza principale, per i vulcani, per il cielo, per il tacchino arrosto, per le tartine di farina gialla, per l'inno nazionale, per la strada che portava a Città del Messico, per Cholula, per Ciotetlan, per le ossa consunte del suo papà, per le fricassee, per i cioccolatini che raschiavano la gola, per la musica, per l'odore delle tortillas, per il fiume San Francisco, per la fattoria della sua amica Elena e i pascoli di suo zio Abelardo, per la luna di ottobre e quella di marzo, per il sole di febbraio, per la sua arrogante solitudine, per Emilio Suarez che l'aveva sotto gli occhi da una vita e non aveva mai fatto caso alla sua voce o a come accidenti camminasse. Il giorno seguente portò in giro la notizia e l'anello luccicante. 6 mesi più tardi si sposò con il signor Arqueros davanti a un prete, a un notaio e agli occhi di Emilio Suarez. Ci furono messa, banchetto, danze e commiati, tutto con grande entusiasmo, come se lo sposo fosse stato al di qua dell'oceano. Raccontano che da molto tempo non si era vista una sposa più raggiante. 2 giorni dopo Cristina partì da Veracruz per il porto dove il signor Arqueros, con tutta la sua galanteria, l'avrebbe accolta per condurla a vivere tra le sue zie di Valladolid. Da lì spedì la sua prima lettera per dire quanto fosse spaesata e felice. Non si dilungava a descrivere il paesaggio affollato di casette e campicelli, ma inviava a sua madre la ricetta di una carne con vino rosso che era il piatto tipico della regione, alle sorelle 2 poesie di un certo García Lorca che l'avevano scombussolata tutta. Suo marito si era rivelato un uomo sollecito e lavoratore che passava la vita a ridere del modo in cui sua moglie parlava lo spagnolo, delle sue storie di spettri, di come diventava rosso ogni volta che sentiva un cazzo e del suo terrore perché là tutti bestemmiavano il Dio per qualunque motivo e giuravano sull'ostia consacrata senza alcun riguardo. Per un anno le lettere continuarono ad andare e venire, finché arrivò quella in cui la zia Cristina comunicava ai suoi la morte improvvisa del signor Arqueros. Era una lettera breve che sembrava priva di sentimenti. Deve essere proprio sconvolta, poverina, disse sua sorella, la seconda che conosceva le sue velleità sentimentali e le sue violente passioni. Erano tutte in pena per il suo dolore, nell'attesa che appena si fosse ripresa avrebbe scritto loro qualcosa di più riguardo al futuro. Stavano proprio parlando di questo una domenica dopo pranzo quando la videro apparire sulla soglia. Portava regali per tutti e i nipoti non la lasciarono andare finché non finì di distribuirli. Aveva le gambe più grosse e calzava certe scarpe dai tacchi altissimi, nere come le calze, la sottana, la camicetta, la giacca, il cappello e la veletta, che non aveva avuto il tempo di sollevare. Terminata la distribuzione, se la strappò insieme al cappello e sorrise. Beh, Eccomi qui, disse. Da quel momento fu la vedova Archeros. Evitata la sventura di rimanere zitella, scacciò le altre con il suo piano scordato e la sua voce ardente. Non si faceva pregare per mettersi al pianoforte e accompagnare qualsiasi canzone. Sapeva suonare qualunque valzer, polka, fandango, aria o passodoble. Scrisse le parole per alcuni preludi di Chopin, che poi cantava evocando romanzi misteriosi. Alla fine del concerto si lasciava applaudire. Si alzava dallo sgabello per fare una profonda riverenza, stendeva le braccia, mostrava l'anello e infine, indicando se stessa con le mani invecchiate belle, dichiarava: Eccomi qua, sepolta a Puebla. Dicono le male lingue che il signor Archeros non sia mai esistito, che Emilio Suarez avesse detto l'unica bugia della sua vita, convinto con chissà quali arti dalla zia Cristina, e che il denaro che lei chiamava la sua eredità provenisse dal contrabbando di qualche merce nascosta nelle valigie del suo corredo nunziale. Chissà. Quello che è certo è che Emilio Suarez e Cristina Martinez furono amici fino all'ultimo dei loro giorni. Cosa che nessuno perdonò mai, perché l'amicizia tra uomini e donne è un bene imperdonabile. Ci fu una nostra zia fedele come nessun'altra donna. Almeno così dicono tutti quelli che la conobbero. Mai si vide a Puebla donna più innamorata o più sollecita della sempre raggiante zia Valeria. Faceva la spesa al mercato della Vittoria. Raccontano le vecchie del mercato che perfino dal modo con cui sceglieva le verdure traspariva la sua pace. Le toccava piano, osservava la lucentezza della buccia e le lasciava cadere sulla bilancia. Poi, mentre gliene pesavano, buttava indietro la testa e sospirava, come chi ha appena assolto un compito affascinante. Alcune sue amiche la credevano un po' matta, non capivano il suo modo di affrontare la vita, sempre soddisfatta, sempre a parlar bene di suo marito. Diceva di adorarlo persino nella massima confidenza, quando conversavano come con se stesse nell'angolo di un giardino o nell'atrio della chiesa. Suo marito era un uomo del tutto ordinario, con i suoi imprescindibili attacchi di malumore, con il suo necessario disprezzo per il pranzo, con la sua ingrata certezza che la migliore ora di amare fosse quella che faceva comodo a lui, con le sue euforie mattutine, le sue assenze notturne, con le sue perfette teorie sull'educazione dei figli e la prudentissima distanza che manteneva da loro. Un marito come tutti gli altri. Per questo sembrava assurda la condizione di perpetua innamorata che sprizzava dagli occhi e dal sorriso della zia Valeria. Ma come fai? Le chiese un giorno sua cugina Gertrudis, famosa perché ogni settimana cambiava attività, mettendo in tutte la stessa passione sfrenata che i grandi uomini dedicano a un unico compito. Gertrudis era capace di fare 5 maglioni in 3 giorni, montare a cavallo per ore e ore. Preparava torte per tutte le feste di beneficenza, prendeva lezioni di pittura, ballare il flamenco, cantare canzoni popolari, invitare 70 persone a pranzo la domenica e innamorarsi con assoluta naturalezza di 3 signori diversi lunedì. Come faccio cosa? Domandò la serafica zia Valeria. Non annoiarti mai, rispose la cugina Gertrudis, mentre infilava l'ago e iniziava a ricamare una delle 300 tovaglie a punto croce da lasciare in eredità alle figlie. A volte penso che tu abbia un amante segreto pieno di audacia. La zia Valeria si mise a ridere. Dicono avesse una risata argentina e aperta da destare invidia. Ne ho uno diverso ogni notte, rispose quando smise di ridere. Come se si sapesse dove andare a prenderli, disse la cugina Gertrudi, seguendo ipnotizzata il movimento del lago. Io lo so, rispose la zia Valeria, incrociando le morbide mani in grembo. In questa città di 4 gatti dove si conoscono tutti? Disse la cugina Gertrudi, facendo un nodo. Nella mia testa, affermò l'altra, gettandola all'indietro. In quel gesto così suo che solo in quell'istante la cugina vi scoprì qualcosa di più che una strana abitudine. Basta chiudere gli occhi, disse senza aprirli, e trasformi tuo marito in chi preferisci. Pedro Armendariz o Humphrey Bogart, Manuleto il governatore, Il marito della tua migliore amica o il migliore amico di tuo marito? Il venditore di zucchine o il patrono milionario di un ospizio per vecchi? In chi desideri, per desiderarlo ogni volta in modo diverso. E non ti annoi mai. L'unico rischio è che alla fine si notino le nubi sul viso. Ma questo è facile evitarlo, perché le scacci con la mano e torni a baciare tuo marito, che di sicuro ti ama come se fossi Ninon Sevilla o Greta Garbo, Maria Vittoria o l'adolescente che sta sbocciando nella casa accanto. Baci tuo marito, poi vai al mercato o ad accompagnare i bambini a scuola. Baci tuo marito. Ti rannicchi contro il suo corpo nelle notti di tempesta e continui a sognare. Raccontano che così abbia sempre fatto la zia Valeria e che per questo visse felice per molti anni. Quello che è certo è che morì mentre dormiva con la testa gettata all'indietro e ha un autografo di Augustin Lara sotto il cuscino.